later, than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli, che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli è sempre mezzanotte, K e Drago, impegnati nella lotta per liberare il tucano triste ingiustamente imprigionato, rincontrano il pollo in sbattimento. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Ma Drago, ma povero tucano, ma senti come si lamenta. Veramente sta cercando di cantare una canzone di David Bowie. E poi sempre la stessa, oltretutto. Sì, è bellissima. Sarà bellissima, però potrebbe anche cambiare. Bowie ne ha scritte tante. Infatti, potrebbe farne altre, no? Pollo in sbattimento. Ciao. Ciao. Potrebbe fare Heroes o Ziggy Stardust. Vabbè. Ma oggi tu sei in sbattimento? Eh beh sì. Poi da quando c'è il tucano ci hanno ridotto le dosi pro capite di paroxetina, quindi... E quindi tu vai in sbattimento? Eh beh certo. Con una frequenza... Inaudita. Poi io soffro di fobie sociali miste. Miste. E quindi senza la paroxetina dove vado a finire? Non lo so. Quel tucano bastardo. Ma dai, adesso non puoi. Perché ce l'hai con lui, scusa? Come perché? Sempre perché. Per voi è sempre facile. Povero questo, povero l'altro. E per colpa di quelli come voi che siamo ridotti così. Ma cosa? Sempre a preoccuparsi di quelli del terzo mondo. I bamba che vanno in giro. Ma cosa dice? Ma quali bamba? Pure di fare così, il terzo mondo siamo diventati noi. Ma dai. Questo è buonismo. È il solito buonismo dei progressisti. No, progressista lo devi dire a tua sorella Polo. No, ma però senti, qui... Polo in sbattimento. Scusa, perché ce l'hai col tucano? Spiegamelo, tranquillo. Prima di tutto, perché è un tucano? Vabbè, ma cosa vuol dire? Ma cosa è? Appunto, è un tucano, dovrebbe stare fuori di qui, quindi... Invece è dentro. Già il fatto che io sono un pollo e lui un tucano gioca a suo sfavore. Perché? Perché qua dentro i diversi non è che sono visti tanto bene. Me ne ero accorto. Solite regole qui. Qui siamo tutti polli e i polli sono tutti uguali. Vabbè. Più o meno. Io per esempio ho il becco, no? E che becco? E i miei colleghi non ce l'hanno. Quindi? Quindi in realtà non è che siamo proprio tutti uguali. Allora. Però un tucano, no, è troppo. Tucano, lui il becco ce l'ha, lui il becco. Appunto, proprio di quello. Se la tira troppo questo becco. Tutti quei colori sgargianti, enorme. Enorme. Noi qui siamo abituati al basso profilo, Arriva lui e sconvolge tutto il tran-tran. Ma ho capito, però non è colpa sua. Come? E questo non è da sottovalutare. Come poi avete visto come dorme? Perché come dorme? Lì, col becco all'indietro, tutto storto. Ma è un tucano. Sembra... È tucano, dormo così. No, ho capito, ma qui non si può dormire così. Chi si crede di essere? Sempre lì a defecare poi. Ma cosa? Ma questo anche tu defecare. Vabbè, sì, ma la mia è cacca di pollo, mica di tucano, no? E vabbè, ma lui è un tucano. E beh, affari suoi. Pollo di Pollock, nel senso di Jackson, abita nascosto nel dipinto blu. Il pollo di Pollock, nel senso di Sydney, vive mascherato nei tre giorni del condor. Il pollo con l'Apollo, nel senso di maglietta, è fratello di Licia, attore pure lui. Il pollo sull'Apollo, nel senso di Volkswagen, è appeso nell'1-8 della macchina del popolo. Siamo in ogni angolo del mondo. La fabbrica di polli. Pronto? Sono amministratore delegato. Ho sentito che ci sono due tipi che vogliono difendere la causa del tucano. Sono due polli alti che vanno in giro a far domande. Ecco, voi fate gli evasivi, non siete troppo precisi. Dite che non sapete, che è una questione burocratica, che siete fiduciosi di poterla risolvere in tempi brevi, chiaro. Non fate gli ostili, siate cordiali e fate in modo che poco per volta si dimentichino, ok? L'abbiamo già fatto altre volte, no? Sapete benissimo come si fa. E poi del tucano non parliamone più. Intanto lo facciamo fuori, no? Quando lo facciamo fuori? Aspetta che me l'ero scritto. No, niente da fare, non lo trovo più. Comunque ti faccio sapere, magari lo videofilmiamo così per le nostre serate, mi spiego? Che ora è? È mezzanotte. Ah già, è mezzanotte. È sempre mezzanotte. Ma cosa stanno facendo tutte le persone normali a quest'ora? Sono tutte a dormire o ad ascoltare la radio. O a brutalizzare ragazze un po' sbandate, anche. Volendo. Di notte. Di notte. Sbandate. Perché piangi? Chiedo. Non me lo posso permettere. Non anche questo. Non una cubista in tanga che si fa colare il trucco tra le lacrime in mezzo alla pista di una follatissima mezzanotte. Dimmi perché piangi, le urlo. Ma lo so benissimo il perché. Stasera è serata di fiera. Caldaie e termoconduzione, credo. Venditori, ingegneri e qualche sedicente esperto di comunicazione e marketing, per lo più dal nord e dall'est Europa. Domani tornano dalle mogli. O concludono qualcosa stasera, qui, adesso, o gli toccano mesi di erotismo ammuffito dalla routine coniugale, quando va bene. Finché rimangono sobri e nel recinto degli stand ci provano solo con le hostess e le interpreti, senza convinzione e, ovviamente, senza risultato. Poi arrivano qui, la sera, di solito già ubriachi, e si avventano sulle mie ragazze. C'è quella che preferisce respingerli e quella che tratta sul prezzo. Il problema è quando capita quella che non ha capito come funziona e frigna per una mano sul culo. Davvero, qualcuna di loro ci casca a quella balla della faccio immagine o esalto la femminilità in modo non volgare. Queste ragazze modellano il proprio orizzonte esistenziale leggendo le interviste delle divette da calendario e pensano che possa essere così anche per loro. Ma non hanno ancora colto la differenza tra la simulazione della pornografia fatta sui giornali e la simulazione della prostituzione fatta nelle discoteche. E ogni tanto ci vuole qualcuno che glielo ricordi. Per questo adesso le asciugo il viso con un fazzoletto, poi le raccolgo le guance tra le mani e le dico con dolcezza: adesso tu o torni a quel tavolo più sorridente e sculettante di prima o mi restituisci i soldi che ti ho dato per la serata e non ti fai mai più vedere. Mentre la guardo tornare nel privé, mi accorgo che non so neanche come si chiama. La fabbrica di Polly. Poi ci sono mille altri motivi per non avere compassione del tucano. Ad esempio questa lagna. Pollo in sbattimento, secondo me tu dovresti andare in analisi. Analisi. Perché tu credi che io non l'abbia fatta l'analisi? Io ho anni e anni di analisi alle spalle. Anni di analisi alle spalle, poi? E poi paroxetina. Il tucano canta bene, è gentile, non dà mai di matto. Considera che un uccello in attesa di giudizio abbia un po' di compassione. Ma perché voi credete che succederà qualcosa? Sì. Ma voi non avete capito proprio niente. Io lo sapevo che voi due qua dentro non riuscivate a farcela. Che cosa stai dicendo? Ma voi avete fiducia, è questo che mi fa impazzire, la fiducia. Sì, perché voi credete che qualcuno là fuori si sta preoccupando di tirare fuori il tucano dalla fabbrica. Ma abbiamo fondato il comitato Vola Tucano. Vola Tucano. Dovranno darci ascolto. Dai, pone sbattimento, dai. Vuoi fare parte anche tu del comitato Vola Tucano? No. Come no? No, io voglio far parte del comitato Muori Tucano. Ma no, ma che tristezza. Ma come che tristezza? No. Ma basta. Guarda, il giorno che lo fanno fuori mi metto lì in prima fila e porto tutti anche i pulcini dei vicini. Così impara. Ma impara cosa? Impara a essere un tucano. Che cosa succederà adesso? Il destino del tucano triste è davvero segnato come sembra? E l'amministratore delegato perché vuole insabbiare il caso del tucano e decidere come Pilato per la sua sorte? Le risposte a queste e altre domande domani a mezzanotte su Radio 3 con il prossimo paroxetinico allestimento del... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce, quasi mai. On the air, every night it's the same old. Good night, ladies and gentlemen. Good night.